Quando quelli che erano ancora nelle loro tende udirono ciò che era accaduto, rimasero sgomenti. Colpiti da terrore e panico, nessuno volle più restare vicino all'altro, ma tutti con lo stesso slancio si dispersero, fuggendo per ogni sentiero della pianura e della montagna. Anche quelli che erano accampati sulla montagna intorno a Betulia si diedero alla fuga. Allora gli israeliti, cioè quanti tra loro erano capaci di combattere, si riversarono su di loro. Ozia mandò subito messi a Betomassaim, a Bebai, a Cobai, a Cola e in tutto il territorio di Israele ad annunciare ciò che era accaduto e ad invitarli a scagliarsi contro i nemici e sterminarli. Appena gli israeliti udirono ciò, tutti concordemente si precipitarono su di essi e li fecero a pezzi, giungendo fino a Coba. Sopraggiunsero parimenti anche quelli di Gerusalemme e di tutta la regione montuosa, giacché era stato loro annunciato ciò che era accaduto nell'accampamento dei loro nemici. Gli abitanti di Galaad e di Galilea li accerchiarono di fianco, colpendoli con grande strage, arrivando fin oltre Damasco e il suo territorio. Gli altri abitanti di Betulia fecero irruzione nel campo assiro e lo depredarono, diventando oltremodo ricchi. Gli israeliti, ritornati dalla strage, si impadronirono del resto, così che i villaggi e le borgate della montagna e del piano vennero in possesso di abbondante bottino, poiché ve n'era una quantità molto considerevole. Allora il sommo sacerdote Joachim e il consiglio degli anziani degli israeliti che abitavano in Gerusalemme vennero a vedere i benefici che il Signore aveva concesso ad Israele e inoltre per vedere Giuditta e salutarla. Appena entrarono da lei, tutti concordemente le rivolsero parole di benedizione, dicendole: «Tu sei la gloria di Gerusalemme, sei il grande orgoglio di Israele, sei lo splendido onore della nostra stirpe. Compiendo tutto questo con la tua mano, hai operato nobili cose a vantaggio di Israele, e di esse Dio si è compiaciuto. Sii benedetta in eterno da parte del Signore Onnipotente». Tutto il popolo soggiunse: «Così sia». Per 30 giorni tutto il popolo fece bottino dell'accampamento. A Giuditta fu data la tenda di Oloferne, tutte le argenterie, i divani, i vasi e tutto l'arredamento. Essa prese tutto ciò e lo caricò sulla sua mula. Poi aggiogò i suoi carri e ammonticchiò tutto sopra. Intanto tutte le donne di Israele accorsero per vederla, la elogiarono e eseguirono tra loro una danza in onore di lei. Essa prese nelle sue mani dei tirsi e li distribuì alle donne che l'accompagnavano. Poi essa e quelle che erano con lei si incoronarono di ramoscelli di olivo e, mettendosi a capo di tutto il popolo, Giuditta guidò la danza di tutte le donne, mentre tutti gli israeliti seguivano rivestiti delle loro armi, portando corone e cantando inni con le loro bocche. In mezzo a tutto Israele, Giuditta intonò questo canto di ringraziamento e tutto il popolo ripeteva a gran voce questa lode.